in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Une. Buonasera, ben ritrovati a tutti voi simpatici amici ascoltatori di Piazza Alta. Siamo ancora noi e torniamo alla grande dopo la pausa. Dopo due settimane, ma quanto mi sono mancato! Non è che siamo ancora noi, siamo solo noi. Ah, ecco, come diceva il poeta, mi sembra giusto. Poetica che stasera ci andava proprio di fare. Che ore sono? Ma perché? Perché stasera c'è poesia nell'aria. Ah, poesia, vedrete. Sì. Una rievocazione storica. Una cosa fantastica. Ma ne parliamo io. Stai calmo. Rilassati. Ma dove ci potete ascoltare? Dopo. Pensato, non me lo perdonerò. Pensavo in modo sbagliato. Quando pensavo che avremmo vissuto assieme in quella casa lassù, dall'alto avremmo guardato la gente cadere giù. L'odore della tua pelle non lo annuserò più, no, e i tuoi discorsi sul tempo, lo so, ci ripenserò su. Lo so, ci ripenserò su. Lo so, ci ripenserò. Questo è il mio fiore. Faccia arrossata dal primo sole di marzo, la tua mania per le foto, oh, che non mostravi a nessuno, perché ora tutto mi manca, e prima sembrava poco, e quei tuoi balli impacciati, lo so, non li vedrò più, no, lo so, non li vedrò più, no. Lo so, non li vedrò più, no. Per te. Per la categoria nuova proposta di questa 22esima puntata di Piazza Alta abbiamo sentito Il fiore per te di Sic Tamburo, il primo singolo Sic di estratto dall'album dal titolo Senza Vergogna. Ma perché sentiamo così confusa, Sara? Perché in studio è già bara onda totale. Perché stasera la vedo dura. E come potranno già vedere i nostri amici su Facebook, ci sono delle foto già che testimoniano la presenza dei nostri ospiti. E il problema, cara Sara, è che anche Marcello è incontenibile stasera, sì, perché sì, è una puntata che altro sono incontinente ha anche delle cuffie nuove, tra l'altro, sì, che si intonano molto con niente, il colore dei miei occhi e... certo, è tanto tempo che non parliamo del tuo abbigliamento. È sempre il solito che, come avrai capito, ciclicamente rimetto. Non è questo l'intervento in cui si parla dell'argomento, però vorrei dire che ti sei vestito proprio con i panni degli anni Ottanta, proprio, eh? Erano degli, ma no, degli anni, ma no, non stile. L'ha ripresi l'hai tirato fuori dal cassetto. Sì, l'ha ripresi ma perché è andato a ricercare. No, ma prima un'altra cosa, Marco. Allora. Prima diciamo come ci possono ascoltare. Chi siamo? Dai, chi siamo? Lo dicevi prima. Chi siamo lo lascio dire al mio analista. Ecco, però un saluto. Che lo salutiamo. Sì, perché, è come al solito, giovedì sera, Piazza Alta. Sì, ma no, come al solito. È sempre più bello. Ma come al solito il giovedì sera. Come tutti i giovedì, perché di giovedì succede tutto. Tutto il meglio, storie, aneddoti, personaggi, luoghi del nostro paese. Mai come stasera sarà così. Come ci ascoltano? Davvero. Marzi, come ci ascoltano? Come ho sempre detto, con le orecchie attaccate al cervello e il cervello acceso. Ma dal punto di vista tecnico, radiofonico, la frequenza 101.2. O in streaming. Certo. Dal sito. Dal sito. www.radiof.it. Tanto è inutile. No, ma ce la faremo. Scaricando la nostra app per Apple e Android, che si chiama Radio F. Radio F a posto. E oppure, infine, dicevi prima, fa molto piacere a tutti. C'è la pagina Facebook Piazza Alta, in cui da domani troveranno le ostilità. Il podcast si comincia a esserci già fermento. Vedo scudi che si alzano. È meraviglioso. Fantastico. Tutto ciò. Ma ora Sara, che è l'unica persona che potrà tenere un po' d'ordine, ci dirà qual è l'argomento della serata. Sì, ma non volevamo prima dire, a proposito di Facebook. Brava, bravissima. Del logo. Te l'avevo detto che eri l'unica che avrebbe tenuto un po' le fila della trasmissione. Perché abbiamo finalmente scelto il logo. Abbiamo bisogno di voi. No, abbiamo già fatto. Abbiamo avuto bisogno di voi. E i nostri ascoltatori e fans hanno risposto. Tra l'altro non abbiamo ancora salutato Eddie. Ma stasera Marzi, l'ho fatto di proposito, perché gli volevo dedicare momento solo per lei. Un secondo il di fiore silenzio per te della canzone di prima. No, ecco, quella te l'ho lasciata un po' correre, perché il fiore senza vergogna mi stimolava molto, non ti ho detto nulla. Ma un saluto a Eddie e io mi accingo. No, dobbiamo dire che finalmente abbiamo il nostro logo. A dire, scusa, il logo. E adesso in questo istante lo pubblichiamo. Così tutti lo possono vedere. Marzi, lo vuoi descrivere per chi non è collegato su Facebook? Quello che vedo è un po' scuro, non fatevi tradire da... No, allora, eccolo. Ecco il senape di sottofondo. Ma allora, è il nostro paese. A forma di grande cuore. Foiano ha un grande cuore. E ci sono i colori sociali dello stemma proprio del paese. Chiaro, c'è anche le forme. Sì, del paese a forma di cuore e Piazza Alta. E se notate, a un certo punto su Piazza Alta le onde delle frequenze. Assolutamente. Che pulsano. Per in questo momento che io sto salutando da fuori la finestra. E si vede dal lato. Vedete me con il braccio fuori. Bellissimo. Perfetto. Quindi da oggi in poi ci potrete individuare semplicemente guidando il nostro logo o con la foto segnaletica. Fantastico. Ma adesso lo possiamo adesso annunciare, l'argomento di questa sera. Allora, stasera parleremo di una nobile tenzone. Enzino, che va avanti, so, da molto tempo, risale ai tempi. Si perde nella notte. Dei tempi. Io, tra l'altro, non ne sapevo niente, però ho scoperto davvero un mondo livello di scontri e confronti. E quindi chi più ne ha, più ne metta. Allora, stiamo parlando dello scontro tra Piazza Alta e Piazza della Collegiata. Ovvero, meglio ancora, fra Piazzaltini e Collegiatini. E sono già presenti qua in studio, li salutiamo subito. Prontissimi. Iniziamo da Piazza Alta, che è rappresentato da un unico rappresentante, ma che ha un I nostri ascoltatori già conoscono, perché l'abbiamo già avuto come ospite, e quindi salutiamo. Buonasera a tutti. Graziano in arte. Gramazio. Facci solo l'accensione. A posto. E poi in rappresentanza della Piazza della Collegiata dei Collegiatini abbiamo Valerio. Ciao, forza Collegiata. Vedi, Moreno. Ciao. E Massimo. Anche lui l'abbiamo, già incontrato come ospite in tutt'altro contesto, però stasera si può veramente. Quindi sono molto Allora, il consiglio che do agli amici a casa: telefonate anche ad altri amici, fate dei gruppi d'ascolto, perché sarà una puntata stasera indimenticabile. Davvero. Si parte anche con la musica in modo indimenticabile, perché ci caliamo in quella che era l'atmosfera degli anni Ottanta. Quindi il nostro Simone proprio ci farà sentire un revival della musica degli anni. Meraviglia, oddio, che bellezza, che bellezza. Grazie. Allora, traffico. Say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me, where's my way? E questo revival anni 80 di questa 22esima puntata di Piazz'Alta è iniziato, pensate, con un successo internazionale che raggiunse il primo posto in molte classifiche europee. Direttamente dall'album omonimo di Gazebo abbiamo ascoltato I Like Chopin. Lacrime agli occhi, tantissimo, no, al nostro Marzi. È azzeccata anche come periodo, perché voglio dire, ci accingiamo alla primavera, l'estate, il Gazebo serve nei giardini. Il Gazebo. Ma voi sentite, vabbè, proviamo a fare un ultimo intervento, sì, come da scaletta, per far capire, e dopo banda, vai. Allora, vediamo se riusciamo, proviamo, Sino e Marzi, a spiegare meglio che cos'è questa faida interna a Foiano che ha visto scontrarsi i piazzaltini e i collegiatini. Quando nasce, Marzi? Cara Sara, come diceva prima Enzo, si perde un po' nella notte dei tempi, ma le più recenti risorse iconografiche che abbiamo rinvenuto... Finiamola qui, ecco, dopo risorse iconografiche. Allora, scusate, punto. Allora, verso la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, Foiano è stata attraversata dai suoi anni di piombo, tra virgolette, con gang che si combattevano per le vie del paese a suon di armi improprie: mele, gavettoni, pistole ad acqua e manganelli di carnevale. Ma le disfide più temerarie avvenivano sulle scaline della collegiata, senti? Hola. Ma anche nell'oliveto vicino ai lavatoi a suon di pallonate. Ogni arma era accettata. L'organizzazione dei due schieramenti era puntuale nei minimi dettagli e alle truppe negli avamposti seguivano delle retrovie, posti di rifornimento. Mamma mia. Facciamo subito nomi e cognomi, perché per i collegiatini l'Anna De Libero confortava con i panini con la mortadella e il panino col tonno e capperi. Mentre per i piazzaltini c'era Sincero, al quale mandiamo un saluto. Era l'avamposto ultimo delle truppe di rifornimento, con panini al prosciutto e per i più fortunati anche una girella. Ma c'erano anche dei mercenari, e con questo concludiamo questa piccola introduzione, che al soldo del miglior offerente cambiavano casacca, cioè non erano né piazzaltini né collegiatini, e in base alle offerte fatte dall'una o dall'altra fazione, per quelli andavano tra virgolette a combattere. Tra gli altri si ricordano, ma sarebbero tanti, il famosissimo De Colellis, certo, e il Franchinim. Ma aggiungo a questi due nomi anche Bussolottis, che beh, insomma, anche lui. Allora, ora, prima di passare al prossimo brano, iniziamo a parlare veramente con i protagonisti. Sì, perché ha un po' cambiato la faccia del paese questa diatriba, perché chiaramente si è svolto tutto all'interno delle mura di Foiano, e diciamo quelli che all'epoca erano i veri protagonisti di questa diatriba oggi sono qui, e vediamo anche dalle loro vive voci quello che è successo allora. Lo vediamo. Già, e oggi dalle vive voci lo vediamo, e dalle facce lo sentiamo. Lo ascoltiamo. Allora, intanto chiariamo subito, perché c'è stata una polemica già fuori onda. Perché ho detto dei nomi, invece qui ci sono i nomi. Certo, ognuno ha il suo nome di battaglia. Di battaglia, esatto. Quindi abbiamo detto per Piazz'Alta Gramazio. Graziano, il gemello. Il gemello. Mentre, sì, ma quale dei gemelli? Quello che faceva così. Sì, un suo. Mentre invece per la collegiata Valerio, in arte Scitto di Piero. Rombolo. Moreno. Ciuccio. Detto anche Catorcio. E non stiamo a specificare perché le sue capacità, qualità tappatoria. Sì. Io che ero addetto alla logistica ero il Cito del prosciutto. Biribò. Probabilmente l'unico che ha fatto soldi da questa guerra. Bravo. Allora, che fomentava nel prima di iniziare veramente a raccontare tutto, diteci solo una cosa, tanto sì, per scatenare subito un po' di polemica: chi è che è uscito vincitore, Piazz'Alta o collegiata? Questa è una domanda retorica. Ormai negli annali che citava il buon Marzi prima è assodato che collegiata crociata sia uscita, sia riuscita a contrastare le orde barbariche che dall'alto scendevano nel tentativo di conquistare la Collegiata. Loro vanno sempre avanti, vanno sempre avanti. Però le bastonate l'hanno prese anche là. È parecchio, l'hanno prese le bastonate. Come introduzione mi sembra perfetta. Il clima si respira bello. Siamo già entrati negli anni 80 e quindi continuiamo con un altro brano degli anni 80. Musica. Direi di andare con il meteo, guarda. Erano gli Alphaville, direttamente dal 1984, con uno dei loro celebri successi, Big in Japan. Allora, mi sto togliendo la giacca con le spalline, perché quella era proprio tipica di te, Marcello, avevi la cintola e il ciabarro. Di coccodrillo, sì. Diretti le autobus. Qui il fuori onda vale quanto l'onda, ma stiamo, sì, vi promettiamo che pubblicheremo... Sì, proprio... lui è, infatti, allora, siamo a posto. Siamo entrati in argomento. C'era questa grandissima faida tra Piazza Alta e Collegiata. La prima domanda che mi viene in mente, mi rispondete tutti, fate come picchiatevi già, insomma è uguale. Intanto la collocazione era più a vantaggio a favore di Piazza Alta, magari, immagino. perché partendo da sopra, alte, quindi la forza di gravità era, esatto, perché era, spieghiamo ai nostri amici a casa che, per chi non lo sapesse, Piazza Alta è il punto più alto del paese ed è collegata a Piazza della Collegiata da una discesa e una scalinata, certo. Quindi da sopra l'attacco era, diciamo, fatto con più forza perché era abituato, era aiutato dalla discesa. C'era una porta d'ingresso con delle scaline in cui, però la porta d'ingresso permetteva di fare varie imboscate, no? mentre scendevano, soprattutto d'estate, con il gavettone. Ecco, infatti, quali erano proprio le battaglie tipiche? Il gavettone, devo dire che noi eravamo favoriti dalla posizione della fontana collegiata. In alcuni casi, in mancanza di acqua, veniva anche utilizzato altri liquidi. Ma lì si alzava il livello dello scontro. Non vorrei ricordare. Ecco, qui io mi ricordo, però, correggetemi se sbaglio, che c'erano proprio anche dei territori franchi in cui potevano essere ricoverati, diciamo, i feriti, quelli anche un po' più lievi, perché lì vicino c'è, oltre il sagrato della Collegiata, anche l'asilo delle monache. Bravo. Ecco, volevo capire io se, se appunto era considerata una piccola Svizzera. Una piccola città del Vaticano. Una piccola città del territorio d'accoglienza. Un asilo proprio. Era l'ingresso del Duomo della Collegiata, insomma. Considerato, ma non sempre, perché alcune volte c'erano degli elementi, i mercenari che citavi prima, che non si fermavano davanti a niente e a nessuno, quindi in alcuni casi sono state anche travolte le suore scalze che si ammestavano. Ecco, ma una domanda la faccio prima a Piazza Alta, quindi a Gramazio. Ma voi vi organizzavate in che modo? Cioè, vi trovavate il pomeriggio e dicevate stasera facciamo un assalto? Anche, si faceva anche l'assalto, loro non si ricordano, però mi ricordo in un momento che loro erano tutti presi, furono accerchiati addirittura lateralmente dalla piazza Centro Foiano, che vennero riempiti di tutto, anche di sabbia, mi ricordo, anche di sabbia, che qualcuno l'ha presa anche in bocca la sabbia. E vabbè, c'è anche queste cose. E aggiungerei che finché l'ha presa in bocca. vabbè. Oh, dunque, ma chi erano i personaggi, a parte voi ovviamente, che siete qui rappresentativi, i più famosi che sono rimasti, diciamo così, in questa faida? In Piazza Alta, per esempio, chi c'era? Piazza Altini, posso dire, io, il mio fratello, Ciacciuga. Fermo, sta lì, è vero, Stefanino, il Pino, e poi c'era Taralla Andrea, poi c'era Missilino, poi Messia, Pipame, c'era... Questi erano quei ragazzi più grandi, poi c'era Ciacciughino, poi c'era il Cascioli, poi c'era Moschino c'era, quelli più grandi, poi c'era il Salem, l'avevo detto, un altro, c'era la mare, Tatone, e in collegiato Lupini, che veniva con noi, Lupini, veniva a piazza perché c'era il nonno, Lupini e il vecchio Bruno che faceva i semi, ragazzi, semi! Invece in collegiata... Collegiata, c'era lui, e poi c'era Castramorto, Don Ciancino, Castramorto, Don Castoro, che c'era? C'è il Togna Castoro, un po' acciaiolo, che c'aveva? Erano mercenari quelli, il secco, venivano mercenari. Mercenari, quindi mercenari. Sono tutti stati schedati, ecco, e Gramazio li sta passando tutti al vaglio praticamente. Ma voi vi mettevate d'accordo per fare degli scontri, oppure ammettiamo voi in collegiata eravate lì la sera? Sicuramente il più partiva dalla faida calcistica. Ah, ok. L'avevamo già ricordato anche nell'altra trasmissione che la piazza della Collegiata, non so perché, ma si prestava a essere un campo da calcio, diciamo, naturale, insomma, soprattutto perché c'era una discesa che poi, quando il pallone finiva lì, andava veniva direttamente a casa mia, in località Il Bottaio. Marzi veniva chiamato anche il raccattapalle. Veniva chiamato come raccattapalle, o fino al cimitero andava. Sì, veramente. E quindi lì, no, alcune volte riuscivamo anche a entrare nella bottega dei ballerini. È vero. Forse era lì, le vecchine, quando ci venivano a giocare a pallone, si mettevano a piangere, perché ogni tanto, quindi, qualche ballerata volava, i denti, ogni tanto qualche finestra, qualche vetro. Come tante cose in Italia, è nata prima fra tutte anche dalla passione calcistica. La particolarità del nostro campo era le scaline della chiesa, perché noi si giocava in un centimetro quadrato, in 25 contro 25. E un aneddoto con Bianchisio. Facciamo, diciamolo subito allora. Sì, no, Bianchisio. Cioè, Bianchisio che sarebbe, beh, sì, Giorgio, sì, ok. Il grande Giorgio, sì? che salutiamo. Ciao Giorgio! Con la manina. Con la manina. Ciao Giorgio, che durante una partita di pallone, proprio in questo periodo, eravamo praticamente ci dividevamo le scaline in due, no? Noi ragazzi che giocavamo a pallone e le donne e le vecchine di collegiata che facevano la calza e chiamavano il guardia e chiamavano il guardia, noi si diceva il guardia, il guardia. A un certo punto, in una punizione alla Pirlo, vediamo partire il cito De Piero, anche chiamato Valerio Romboli, che si ascolta, sì, in questo momento detto Rombolo, c'avevo la scarpettina nuova della Tampico, nuova proprio levata ora dalla scatola, sballata, vai, tira così, parte Bianchisio, grande cross, colpita in piena testa, la città di Ballerino, tutti il gioco si ferma, tutti la guardano, 3 secondi di silenzio, piegata sulla destra, fuggi generale, con marito della figliola del ballerino all'inseguimento per Pogliano, con la presa per l'orecchio di Bianchisio, che in realtà poi non era stato lui, erano state le tampico del cinto di Piero, che avevano colpito, ripreso per un orecchio e portato in collezione. Bellissimo, diciamo che come inizio può bastare, sì. Allora, alla grande, davvero. Che anno era? Era circa il 1980. Ma però ve lo ricordate come 80, se fosse ieri. 1986. E in quegli anni andava anche questa base, se non sbaglio. 82, anche 80. Traffico. Don't you want me, baby? Don't altro successone dei primi anni 80 e Simone però stasera Simone ma saluta ti saluta anche te. Salve a tutti. Con la manina. Ciao. Con la manina, sì sì, con la manina. Allora, altro successone dei primi anni 80, Don't You Want Me, della band britannica The Human League. Bene, allora, quote popolari anche questa settimana. Io volevo chiedere ai nostri ospiti, so che in quel periodo era difficile anche la convivenza con le forze pubbliche. Con la forza pubblica. Come lo dici Soave? No, vedi, ha assunto un tono importante. Le gang di Fogliano erano un po', vivevano nel nel substrato, nel underground. La Verzichiana. Volete dirci qualcosa di questo rapporto che avevate con, avevate o non avevate, con le forze dell'ordine? Sapevo parecchi. Avevate delle abbastanza assidue. Sì, era proprio. Come interagivi? Molto. L'interazione era una sola. Le due vie di fuga. Via del cimitero. La via di fuga era l'asilo e quindi si nascondeva nei giochini lì nelle classi. L'altra via di fuga era su Piazza Alta. Sì. E lì c'era la guardia. E lì c'era la guardia. Che succedeva, però, come sempre, quando venivano anche loro in Piazza Alta. Sempre i vigili venivano in piazza, noi tutti per i borghi, ecco. Non c'era più nessuno, tutto calmo, tutto sereno. Se posso aggiungere, le forze dell'ordine erano un elemento coalizzante, cioè creavano la tregua fra piazza e piazza. Era il terzo nemico che quindi andava combattuto. Era il nemico, assoluto per tutti. Metaforicamente. Un dipinto proprio ai ragazzi della via Palla. Sì, non so se vi richiama un po' questa. La guerra dei bottoni. Presente. Molta palla. Ecco, volevo capire una cosa. Ma e già qui ci sono delle difficoltà. Io ci provo. Però. Quando andavate giocare a pallone all'Oliveto, alle bucce, ai lavatoi, quello che cos'era? Un po' un torneo, campo neutro, tipo gli mondiali o gli europei. Una volta credo di averci giocato, poi vi lascio parlare, se mi ricordo bene, il campo a 15 gradi di pendenza, qualcosa di pendenza, le porte fatte dalle olivi, pali da due olivi. No. Se qualche mattone, qualche sassata. Quello serviva a due cose: durante l'estate era la preparazione poi per giocare. Se uno regge una pendenza di c'era l'andata in collegiata e il ritorno sotto alloggiato. E d'inverno c'erano le Olimpiadi invernali negli anni che nevicava, non so Marci se ti ricordi, perché anche te, perché ora fai l'uomo erudito e vuoi stare neutrale, però da ardito c'erano praticamente le quelle che noi ritenevamo che fossero delle carcasse di auto, spesso invece erano auto. Cofani, sportelli, gomme, c'era di tutto. C'era che dice che Dindella aveva smontato il cofano di una Diane, era andato dentro a pigliare due cuscinetti, ritorna fuori il cofano, perché d'inverno quando nevicava venivano usati come slittino. Certo, è chiaro. Ma poi logico, lui dice Dindella, ma quando gli portano via la camera d'aria a questo camioncino che non vide più la ruota, erano tutti giocati con questa camera d'aria con la neve, le bucacce erano e tutti dentro erano. E a proposito di camera d'aria e furgoncini, prima però ogni tanto è giusto. Hai portato la cartina per fare la Ferrari. Tranquillo. Però volevo chiedervi il rapporto che avevate voi in collegiata, siccome l'abbiamo accennato prima, con l'arciprete nostro che tutti ricordiamo, Dom Italiano. Te ci vuoi far scendere la lacrimuccia? È una trasmissione sentimentale di evocazione. Dom Italiano l'abbiamo veramente nei nostri cuori perché ci ha forgiato quelli che siamo oggi. Non so se sarebbe così. Lui non sarebbe contento. Grossi responsabilità. Però devo dire, rimanendo un attimo serio, che è una persona che ci ha veramente voluto bene e ci ha sopportato una cosa incredibile, insomma, perché non so se oggi qualcun altro avrebbe un pochino più di Graunum Sali, insomma, sarei in grado di fare quello che ha fatto lui. C'era un campo da calcio nel fisso, vorrei raccontare a Valerio che era quello più adatto ad essere intervistato per la parte della processione, perché mi ha servito messa tanti anni processione. bene. Quando, quando eravamo, no, no, no, quando chiappai il no, collega col crociato. Ho visto la ceretta. Ti farei raccontare quando eravamo in chiesa che interrompeva la messa e, durante, il, come a scuola, durante sì. il Vangelo. La predica faceva, si arrabbia, vedeva la gente che parlava, se scherzava tra ragazzi, lui Ugolini fuori, vai fuori, si buttava fuori dalla chiesa, no no, ma non era questo qui Porino, no, diciamo, diciamo questo è anche lui, però un'altra è noto, è quando c'era il volo che è stato poco fa, il volo alla gente, signori fate silenzio, signori fate silenzio, signori fate silenzio, non siamo al mercato. No, beh, era così, scusa, non abbiamo detto una cosa all'inizio, per chi non l'ha conosciuto, Don Vitaliano era un prete di una certa misura, insomma una certa tendente a 1,90 m per certo, la certo, certo, un rumore, figura imponente con un coccione che insomma si sì, incuteva sì, tipo lo spalancava da solo, insomma, sì, sì, spalancava sì, le porte sì, da beh, solo insomma, in chiesa, allora poi, laggiù in fondo i bambini lo vedevamo ancora più grande, sì sì, è vero, è vero, se lo ricordiamo, io direi che staremo qui per altre due ore, stasera finiamo a mezzanotte, però guarda, sì, direi che vorrei lanciare il prossimo brano che è già partito, Simone ha già dato le stelle, prego, branco. No, 1976. Dal 1976 che... E vabbè, non ce l'ha fatta a resistere. Radio, allora, quello No. Che dolce sensuale. Allora, fantastica. Questa era la sigla, è stata per tanti anni la celebre sigla ufficiale di Radio F, era Enola Gay degli OMD. Marcello, ci ha lasciato un pezzo di cuore. No, voglio dire una cosa. Perché oltre all'argomento della bravo, serata, perché Simone mi ha così commosso stasera, è alla vero, febbre commosso. A 39 c'è un motivo, non sta bene, quindi non, è un, non si tratta di un disco errore singolo, ma proprio di uno stato di, un di disagio sì, è di un'intera scaletta, esatto. Pensa, un delirio deve, ma questa la regalerò, farò dei cd e la regalerò ai tuoi nipoti, sì, sì, questa, che ancora questa non ci sono serata, ma arriveranno. Permettetemi di ricordare un attimo solo che abbiamo un canale YouTube dove rivedrete, oltre ad ascoltare su Piazza Alta la nostra pagina Facebook, rivedrete anche alcuni pezzi, spezzoni di questa puntata che sta diventando memorabile. E anche degli speciali fuori onda. Sì, assolutamente, che ne varrà sicuramente la pena. Per cui, insomma, da domani YouTube, abbiamo anche Facebook. Un canale Maestro della Chiana, Bruni, chiaramente ci ha donato, certo, negli anni abbiamo, passati. Sì, ma torniamo. Studiamo la faida interna. secondo me anche sa. Ma giustamente, ma non poteva essere altrimenti. Ma non poteva essere altrimenti. Ma si fa una domanda intelligente. No, secondo me c'è un grande assente. E il grande assente, chi si occupava di lenire le ferite all'epoca di questa della vostra faida tra Piazza Altini? No, perché se ricordo bene, vicino c'era la Croce Rossa. Era chiusa. Però se non erro, da lì veniva fuori soltanto un mezzo. Il carro funebre, sì. Che era della confraternita, puntata già fatta. Vabbè. Allora, però diciamo un'altra cosa. Graziano, scusami, Gramazio. Spiegaci un po', siccome qui sei in minoranza, te la cavi egregiamente, no? Abbiamo raccontato un po' di avvenimenti che erano quelli, diciamo, che si svolgevano più che altro in collegiata. Ma quando loro venivano dalla collegiata in Piazza Alta, come vi difendevate o come contrattaccavate? Nel senso, i gavettoni, per esempio, ve li preparavate prima o era una cosa, diciamo, estemporanea? Noi era al bisogno o quello che si trovava, anche i secchi. Io mi ricordo, anche i secchi del Dash c'erano. I secchi del Dash. Ma erano di cartone. No, cartone duro, che lì l'acqua c'entrava. Reggeva. Ma oltre che quelli, l'aneddoto ci fu, c'è stato l'aneddoto delle Olimpiadi, c'è stato l'aneddoto del Saracino. Fermo. Calma. Il Saracino. Sì, allora, sì, Saracino, quello d'Arezzo, sappiamo come si chiama. Cavaliere Muratto. Il Saracino meglio il nostro, è meglio era il nostro, sotto alloggiato Montepio. Perfetto, quindi Piazza Alta. Però attenzione, io non voglio di qualche cosa, ma dilla, dai. Diciamo un po' per questo. Nell'era prima di fare il lastricato della piazza, c'era un lastricato antico a quadrello, era che era di già preminente un buco, viene fatto un buco arte, viene fatto nel piazzale, nell'alloggiato. Sì, viene messo un bel cilindro con un cuscinetto e viene costruito il buratto. Ma veramente? Veramente. Se posso aggiungere, all'inizio avevamo provato a farlo in carne e ossa il burato, ma dopo le prime prove qualcuno non ci voleva stare, perché insomma la cosa tutto il giorno riesco a immaginare. Chi ci guarda in video vede che insomma siamo persone abbastanza messe bene, ma lo eravamo anche allora, all'epoca, insomma, il buratto era sempre col fusto del Dash, sì, con le palette, le palline da tennis. Non erano solamente le palline da tennis, c'era anche dei chiodi, se non si è visto. Le palline da tennis che servivano per la mazza fionda del burato. Però il cavallo, bravo, questo e il cavallo, ognuno aveva la sua bicicletta. La sua bicicletta, però attento, Veloscina e Graziella. Scienza, minoranza, le lance. Grazie, Graziella, fermo. Bene, bene. le lance, diciamo, le lance. Quello lì non le nostre mamme, no, no, le scope, spazzoloni, sparite tutte. Quindi, cioè, scusami, descrivo un attimo l'immagine. Prego, prego. Questo buratto fatto col fustino del Dash principalmente, sì, no? Sì, sì, sì. Voi in bicicletta che partivate, che ne so, da 20 metri, quanto sì, è lungo il loggiato, sì, con sì, una scopa, con il manico della con scopa. Con il manico, sì. Sì, sì. Pedalavate e quindi con l'inchiostro, l'inchiostro. Ah, e quindi proprio lasciava il fatto fatto proprio tutto. Poi però il muro della Santissima Trinità, la però qualcuno che si saltava di sotto dalle scale. Qualcuno il segno, esatto. Qualcuno il segno ci ha spatta anche la bicicletta. Ha lasciato un segno importante. La squadra era Piazza Alta collegiata oppure c'era, ma la mischio, però alla fine mi ricordo la mista, la cosa, l'ultimo. Dipende come al calcetto, no? Parti con le squadre già fatte, poi quando non bastano c'era via del Duca, sì, il centro, il Saracino de Rioni, sì, il Piale, sì, insomma, no, perché gioco della gioventù uguale, Piazza Alta veniva chiusa dai piazzaltini, che come arrivavano i nostri amici vigili, noi i cartelli si cavavano subito, però a Piazza Alta non veniva più una macchina, perché prima a Piazza Alta c'era il parcheggio, c'era. E invece voi la chiudevi. Non si chiudeva, allora si faceva il giro dei parcheggi. E il giro più veloce è di forza a piedi o in no, bicicletta? No, anche in bicicletta, a piedi e in bicicletta. Voi partecipavate, no, no, tutti, certo, sì, sì, sì. Beh, sì, quel piccolo mondo proprio. Quanti trofei? Peccato l'hanno riaperto. No, no, noi si andava a comprare i piazzattini, poi alla fine si metteva insieme un po' di soldarelli, si andava ai grandi camilletti, sì, a prendere i medaglini, placcate, no, bronzo, d'argento e d'oro, si andava, anche le bucacce, si andava, capito? E quindi, chi arrivava e vinceva prendeva la medaglia, prendeva. Le bucacce, il triathlon c'era varie discipline, c'era, no, inverno, beh, come raccontavamo prima, c'era il campionato, no, no, beh, da soleggiata quella bicicletta, ok, che faceva il salto più alto dal comune. Scusa, a fare il salto più alto, Ramazio, dentro alloggiato, la, c'era, no, questa, cioè, la discesa delle scaline, sì, qui del comune con la bicicletta, sì, sì, sì, tutta la scalinata, altro, sì, tutta la scalinata, la scalinata sport olimpico, tutti olimpico, bravo. Te, sì, guarda, 20 ragazzi con le biciclette, tu che scendono le scalinate tutti di corsa. Allora ascoltiamo un altro brano, poi dopo facciamo l'ultimo intervento, no, dopo. Preparati, allora, Gramazio, perché dovrai scaldamotori. Guys. fino alle ultime note questa Spirit in the Sky, la cover del celebre brano di Norman Greenbaum che è riproposta dalla band britannica Doctor and the Medics. Mi ricordo ancora il video che vedevo su Video Music, no? Sì, su Video Music, sì, ormai proprio anni e anni, ma qua... Qua ci sono rimasti pochi minuti e ancora tanta storia, roba da dire. La storia, allora, di mi dovete raccontare nell'ordine di Cittone. Vai, iniziate. Cittone, vai. Tra le varie sfide tra collegiate e Piazza Alta, certo, c'era quella della pallonata bomba, no? Chi riusciva da Piazza Alta a arrivare con una pallonata in collegiata. Scusami, descrivo, cioè, praticamente scavalcando le mura castellane. Che mi ricordo una volta c'era mia mamma che era affacciata alla finestra e faceva: oh Valerio, e la vedere, piovono i palloni. E arrivava tutti la porta dei ghiacci, tutto il branco, il primo pallone, dopo 5 minuti tutto il branco dietro, destra, no, ma devi dire no la tua mamma, la titta, la titta. Ma sempre questo grande personaggio Cittone, una volta si era alliati Piazza Alta collegiata contro centro, attenzione, quindi c'è stata anche un'alleanza, era anche numeroso, se numeroso, ricordo, sì, sì, beh, qualche esponente del centro vi era. L'intervallo del primo tempo arriva Cittone, gioco anch'io, o se no tiro, gioco anch'io, se no tiro. Gioco con noi. Una settimana avevo messo i lampioni nuovi, lui tirò e sporcò tutti e due i lampioni. Con un tiro solo. Come fece? Da un po' ancora, scusate, è il record ancora imbattuto. È imbattuto. Ti ricordi, ma c'è una targa. Certo. In uno era un lampione, è segnalato, e l'altro era il tre passa. Spiccato. E poi l'altro episodio che... Le mitiche sfide, quando si andava in trasferta a giocare su Piazza Alta, le mitiche sfide sotto il loggiato, una volta il Salemme, mi ricordo, il Salemme. Una pallonata, giocava a pallavolo, giocavamo a pallavolo, questa era la più grande, i più grandi, la mega schiacciatura, alza Pippo, ma alza il Salemme, si tiro di boom. In quel momento c'era una tre spettatrici anziana che all'improvviso ebbe un mancamento, una balurdia, una sfiorata, una leggera sfiorata. Questa è questa pallonata. Nessuno se ne ricorda, ma nel vicolo Magenta c'era due colonne. Questa signora si appoggiò a tutti. Signora, ma come sta? Si è arrabbiatissima. Noi si continuò a giocare. Dopo un'oretta si accorse che la signora era sempre attaccata alla colonna. Si avvicinò, mezza svenuta. Si avvicinò, questa signora dormiva. Tant'è vero che poi è stata rimossa la colonna. Sì, brutto. Come sempre, no, purtroppo noi è bellissimo. Ah, sì, ma appunto, sì, però sì, prima di finire, intanto vi ringraziamo. Sì, ma poi ci salutiamo, ma ecco che Gramazio si sta allontanando. Si sta preparando. È stata una serata bellissima. Vai, Carmine, sì, a prendere una veramente intensa. Sì. Non abbiamo salutato nessuno. Noi ringraziamo tutti gli amici che ci stanno. Ringraziamo tutti, li ringraziamo tutti insieme, li prendiamo tutti, però io direi davvero questa puntata va risentita da non perdere né la puntata su Facebook né il video su YouTube. Io aspetto. Aspetta. Allora, siamo arrivati alla fine. Ora, prima salutiamo, aspetta. Da noi. Salutiamo Massimo. Allora, grazie. Con i fa due tre puntate. Sarai di nuovo qua, non so per quale motivo, ma tanto mi trovo bene, ho trovato Moreno. Ho trovato il posto buono in angolino. Valerio. Rombolo. E salutiamo in ultimo Gramazio che ci saluta. Ciao. Grazie. Ciao. Fuochi d'artificio la puntata. E chiude la puntata con un altro classico richiesto ormai da tempo. Siamo pronti? Pronti. Poi, dopo questo andiamo con la sigla. Via. Grazie a tutti, ci vediamo. Ciao. Ci sentiamo giovedì prossimo. È stato bellissimo. Ti pieni infatti questo. Avete provato ad ascoltare Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino, alle immagini Paolo e alla parte tecnica Simone. Uni, uni, uni. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.